Sì, c'è l'Avanti, c'è il Monte Alto, Monte Basso, dipende molto, qua è discreto, ma anche la modulazione è discreta, sì, è una modulazione normale, come potrebbe essere un omologato, no? E quindi lo sento bene, e i picchi negativi sono spariti, anche se erano molto molto saltuari, però ho migliorato anche il segnale, è una cosa che ho notato in macchina, con motore acceso il baracchino va sempre meglio. Addirittura Giulio, mi ricordo che c'era un baracchino che a motore spento innescava la modulazione, cioè trasmetteva un fischio, come accendeva il motore spariva il fischio, a te le immagini? Sì, evidentemente c'era qualcosa che non era in ordine, perché sennò, strano, perché anzi dovrebbe aumentare anche, non il fischio, ma qualsiasi interferenza quando accende il motore. Evidentemente facevo al contrario, che ne so, non so cosa dirti Marco, vabbè se tu stai usando l'antenna sempre con la magnetica, può essere anche quello il problema, chi lo sa, non so cosa dirti, comunque siamo rimasti noi tre, io ho Bandito e tu Marco e basta, non c'è altro nessuno, avanti Bandito. 9 più 10 qua, sta già aumentando. Ok, vabbè, tirò qui adesso, ripeto, 7, ma c'era di nuovo l'intervento di Gianni. Gianni, pensavo che eri sceso dalla macchina, avanti Gianni. Sei quasi sparito qui da me, Gianni. Sei quasi sparito, radio quasi niente, e anche segnale bassissimo, 3, non di più. Va bene, dai, comunque, evidentemente ti sei spostato e ti sei messo in una posizione poco consone alla mia postazione. Avanti Marco. E anche qui è sparito, caspita, se è sparito da te, probabilmente alla rotonda e c'è quella montagnetta. Ehi, hai visto, no? È in basso, insomma, c'è un bel di schermatura lì. Invece sarebbe bello che dopo, con calma, andasse dove abitava Sandro, no? Quella piazza lì dovrebbe arrivare bene persino a me. Ok, Graziano, sei ancora all'ascolto? Graziano non è ancora rientrato, a quanto sembra. Ma lì non è più Brattamona, lì è Porto Torres, dove stai dicendo tu, è lì, è libero, è lì, dovrebbe, da lì dovrebbe arrivare benissimo, non bene, benissimo, suppongo, perlomeno, almeno a me dovrebbe arrivarmi bene, poi non so cosa dirti. Avanti Bandito. Un attimo Gianni, che stava parlando Bandito. No Gianni, sei sempre molto basso comunque, molto ma molto basso. Evidentemente sei in una zona poco favorevole rispetto a me. Sì, no, il segnale è sempre quello, adesso era un pochino oscillante, però il segnale è sempre 7, è Bandito. La radio sembrava migliorata, adesso vediamo un po' quando sali ancora, se stai salendo verso quella zona dovrete arrivarmi anche molto meglio. Va bene, avanti Marco. Sì, qua sta lievitando, 9 più 15 il segnale di Roberto Bandito adesso. Gianfranco sta leggendo quella cosa lì, mi pare era abrogato, uno era l'articolo 37 che riguardava o la tassa o la dichiarazione di inizio attività, uno dei due, l'altro vabbè. Ok, naturalmente valgono sempre le regole, perché uno crede che non si paghi più concessione e ti puoi mettere in macchina Kenwood, che ne so, Yaesu, no? Valgono le regole di prima, però non si fa più né domanda né bollettino da pagare. Quindi apparecchi omologati, in teoria sempre, no? Marca UCE, 4 watt, 40 canali, poi ognuno è responsabile, se vuole qualcosa in più, se ne sono il rischio, no Giulio? Beh certo, quello dipende sempre dall'individuo, cosa utilizza, è ovvio, è normalissimo, però per quanto riguarda appunto la tassa che non c'è più, perlomeno non ci sarà più il prossimo anno, perché quest'anno chi è che non l'ha pagata? Perlomeno io l'ho pagata, non l'avranno pagata tutti, comunque dal prossimo anno praticamente questa risulta, perché ormai quest'anno anche adesso può iniziare l'attività e non c'è problema, ed è esclusa da qualsiasi versamento e soprattutto qualsiasi domanda, anche perché c'è scritto abbastanza chiaro che puoi intraprendere l'attività senza appunto fare nemmeno domanda, non ce n'è più bisogno. Intanto c'è anche specificato quello che stavamo dicendo poc'anzi, che non bisogna recare disturbi a nessuno, mentre invece se le ricevi non hai nemmeno il diritto di protestare, anche quello. Insomma, diciamo che è una legge abbastanza chiara, ma solo che per arrivare giù nella pagina in fondo ci sono mille leggi da leggere prima, se uno ha la pazienza di farlo, come sta facendo Gianfranco, va bene. Io poi alla fine ho saltato, non mi interessava tutto quello che c'era sopra, ho fatto scorrere le pagine e sono arrivato proprio il punto dove appunto mi diceva questa, perché a me me l'hanno mandata, mi hanno fatto la fotografia che me l'hanno mandata, io non è che l'ho letta io direttamente sulla gazzetta ufficiale, no, me l'ha mandato un amico serio, per la quale io faccio molto affidamento su quello che mi dice, perché è una persona serissima, per cui, e allora poi io l'ho divulgata un po' a tutti quanti i CB, a me perlomeno, a quelli che ho il numero di telefono, poi staremo a vedere come prosegue la situazione. Avanti, Roberto Bandito. Stampa, non so se adesso mi sentite un po' meglio. Sono un po' più aperto perché sono qua al Monte Nuovo. Allora vado, Giulio? Sì, vai. Sì, segnale ottimo, 9 più 25. Hai fatto una domanda, avete ripreso prima in due, una breve domanda, sì, mi ricordo quando c'eri tu, no, metà anni 80, quando c'ero anch'io, la concessione menzionava i primi 23 canali, no, adesso valgono i 40 canali, oppure puoi usare un 34 canali, esistono tuttora, dovrebbero esistere ancora, però puoi usare i primi 23 o 25, no, perché gli altri poi vanno sotto l'1. Quei canali erano usi particolari, sì, quindi un 40 canali senza problemi, AM, FM, banda laterale. Puoi usare 40 canali AM, FM, banda laterale, deve avere 4 watt AM/FM e 12 in SSB. Te riprendi, Roberto? No, io ho un Intec così da montaggio, che è un 40 canali, però era fermo tanto tempo. Non so neanche come sta funzionando, e poi ho preso un'antenna magnetica da un amico, ma alla fine è una roba così, giusto per montarlo provvisorio e accendere tutto, perché io non abito più a casa. Sì, qua bene, così, conta una cosa, noi siamo anche vicini, quindi la modulazione per me è più che sufficiente, magari in distanza perde un po', ma con un amplificato si può guadagnare molto, è solo modulazione. Allora Giulio, qua devo procedere, dai, vi devo lasciare. Riprendi Giulio, Quadix per me. Allora Gianni, Santiago 7 modulato. Anche 7,5, punte di 7,5. Io lo stesso, capibile almeno? Ma sì, io tu la vedi benissimo qua. Se non vai a giù, non capisce lui. Hai toccato anche Santiago 8, c'hai il QSB ovvio della barra mobile, perché sei in movimento. Va bene, Giulio, riprendi tu Quarix per me. Ok, sì Gianni, da me si è arrivato anche 8, la radio è buona, buonissima. Sì, no, adesso a Roberto Bandito già lo sento bene, il microfono non male, ma lo sento abbastanza chiaro, non c'è problema. No, col barattino sta funzionando bene, Roberto Bandito, sta funzionando bene. Il problema è sempre l'antenna, perché si sa con la magnetica dà quello che dà, non è che dia una grande emissione di RF, assolutamente. No, questo no, però diciamo che adesso ti sento abbastanza bene, non c'è problema. Va bene, dai. Forse è rientrato Graziano. Graziano, tu sei? Ehi! avanti e riprendi grazie a. Messo hai a cucinare? Io sto già spendendo zucca, ma stanotte e melanzane e col sughetto il parmigiano alla pizzaiola, cosa si chiama, la parmigiana. Andava. Vediamo un po' Gianni dove è arrivato. Avanti Gianni. Ok, stai arrivando bene. Il radio sta arrivando bene, il segnale si è abbassato da 8 che era poc'anzi, adesso 6-5. Evidentemente da posizione a posizione c'è sempre differenza di segnale, però la radio anche è sempre buona. Avanti Roberto Bandito. Attento Roberto Bandito, mi senti? No, non mi sente più. Vabbè, siamo arrivati io Graziano e tu Gianni, avanti Graziano. Io Gianni già lo sento, insomma, discreto, ma già lo sento bene. Però guardate quanto mi arriva, però. Fai un passaggio già. E sente, stai arrivando oscillante. E come radio già è buona, va? E vabbè, sì, anche il movimento già va bene. E allora non si può pretendere di più. Ehi, Luca ha finito a bevi. Luca non c'è, grazie. Ah, non c'è la sintesi, anche se non c'è la sintesi. No, si è allontanato, non ha più risposto. Vediamo un po'. Gianfra, notizie ce le dai, si è arrivato all'articolo interessato. Sì, lo sto leggendo in questo momento. Per adesso sono la parte della fibra ottica che per metterla non c'è bisogno di particolari autorizzazioni. Adesso sto proseguendo per vedere se c'è un riferimento preciso alle comunicazioni in banda. Ok, ho capito. Bene. vabbè, è così. Comunque. Oh, iaia. Già, oh Marco, sei rientrato? Si vede che sta preparando il pranzo, come dice lui a quest'ora, a pranzo. Sì, già, mi stai domandando sempre meglio del radio, però segnale si sa, non ha niente a che vedere con la vecchia macchina e con la vecchia antenna di prima, ma è comprensibile comunque Gianni. Dove sei arrivato Gianni? Sono esattamente al Ferro Vecchio adesso, io sono Michele del Ferro Vecchio. Santiago 8. E qui 9. E la radio com'è Marco? Bella, forte. K, questo è il microfono che ho elaborato io, già lo credo. Sono la capo sulla che ti ho dato io già. Sì, ma gli ho fatto anche altre cosette, un ponte, eccetera. L'ho elaborato, li ho cambiato, allora questo microfono era un M93, dell'M93 c'ha solo il circuitino, poi in capsula non è più sua. Il cavo gliel'ho cambiato, gli ho messo quello morbido, perché in macchina lo sai che tirando magari si rompo i fili e cose, gli ho messo il cavo morbido. L'ho tutto quanto, poi gli ho verniciato il coso, la portata, mi manco l'ha visto, l'ho fatta nera perché gialla non mi piace. Era gialla, sembrava un giocattolo, invece lei la sta bene, col grigio ci sta bene. Hai fatto bene già, così almeno hai messo in funzione il nuovo saldatore. A proposito, come funziona quel saldatore con la stazione saldante che hai comprato? Come funziona? Non ce l'ho più, l'ho buttata via perché non serve a niente. Lo sai qual è buono? Quello che aveva la GBC costa 12 euro. Praticamente salda benissimo, ti fa le saldature belle lucide, quella stazione saldata si incollava lo stagno, sembrava alluminio sciolto, lì. No, manco con la pasta salda, niente, non c'era nulla da fare, li pulivo la punta, niente, alla fine mi sono rotto le mani e ce l'ho buttato. Hai capito che la pasta la cosa, la stazione saldante, se non spendi almeno 60-70 euro minimo, se no devi andare ancora con cifre molto più alte per avere una stazione come si deve, una stazione saldante come si deve, perché questi saldatori così a punta, a matita, come li vuoi chiamare, non è che sono un granché. Io sono sempre per il saldatore, quello istantaneo, da 100 watt, come ho sempre utilizzato. Io ce l'ho, peccato adesso che non riesco a trovare un pezzo di filo di rame da 2 mm, perché devo fare la punta nuova, ma non ce l'ho. O meglio, ce l'avrei, però devo fare così, per averlo devo tagliare un pezzettino di cavo H1000, perché il contatto centrale di quel cavo lì è proprio da 2 mm e allo stesso tempo è proprio di quello rigido, e dunque andrebbe bene, ma non l'ho fatto, proprio perché non ho voluto scombinare il PL, anche per la verità non ne avevo voglia di col caldo di tagliare un pezzetto di cavo per poi fare la punta. Tutto lì ho già. Ma già le vedono, fai la GBC, le vedono le punte. Già le trovi, quelle del saldatore a pistola, stai dicendo, quelle le trovi. Lo avevo anche io quel saldatore lì, poi si era bruciato, però andava molto bene, quel saldatore istantaneo saldava benissimo, solo che le parti piccole ti viene male a farle. Puoi fare un PL, puoi fare saldature grandi, ma roba piccola viene male. Perché ci vuole pratica, io l'ho usato per 40 anni e anche di più, da sempre ce l'ho avuto il saldatore istantaneo a 100 watt, e facevo anche le saldature delle componenti eccetera, perché ci vuole un po' di manualità, ci vuole per sapere fare. Certo, se ti addormenti sopra la saldatura rovini la pista, rovini anche i componenti, bisogna saperlo utilizzare. Ecco qual è il discorso. Già io una certa pratica ce l'ho sempre utilizzato, ma non per un giorno, due giorni, ce l'ho minimo 40 anni, anche di più di 40 anni ce l'ho. Infatti pensa un po', il vecchio Blitz, che oggi la punta non si trova più, perlomeno qua, io ero andato a comprarla, ma non c'è la misura, non c'è la misura giusta, perché c'è lo spessore del filo, siccome ci sono i mossetti, che se non è quel diametro, cioè quel diametro della punta non entra, poi la faccio, mi metto alle mani, tanto vale, me la faccio con un pezzo di cavo rigido o del rame e va bene lo stesso, non è un problema. Solo, ripeto, non l'ho voluto fare nemmeno in questi giorni, perché c'era un po' di caldo e poi dovevo scombinare il PL per accorciare leggermente il cavo di discesa del baracchino. No, non era il caso, non era il caso. Avanti, grazie. Quella pistola ne ho due, ce l'hanno sempre bene. E mi lascio 40 anni, mi lascio. Però funzionano. C'è la lampadina che sono antichi che la balla, però funzionano. Sì, infatti io stavo pensando di comprarmene un altro, di farla arrivare, perché quelle che ci sono da Bricome non so quanto valgano, la verità, io le ho viste anche da Bricome e non costano nemmeno molto, ma proprio perché costano la miseria, che non è che mi fido a comprare una porcheria, da Bricome va di tutto un materiale andante, ci sarà qualcosina anche di buono, però preferisco farmela arrivare da fuori, come ho fatto per altre cose. Tutto lì. Avanti, Gianni. Io adesso sono arrivato alle luci gialle, non so come state ascoltando. Io vi ascolto sempre bene, dai. Santiago Nove qui da me, Santiago Nove, per cui. Ma anche quando eri vicino al Ferro Vecchio, lì, anche lì eri sempre Santiago Nove, anche più in fondo, eri sempre Santiago Nove, perlomeno qui da me, 9, 9, 2, 9, 5, e così oscillava così, a seconda della strada che stavi percorrendo. Allora ti grazie. Anche io ti sento abbastanza bene, Gianni, a voi la bomboletta, sei due bassi. Lo so, grazie, anche io ti sento bene, però il problema di questa antenna è quando trova ostacoli. Se trova posto libero esce bene, capito? Se trova ostacoli è quella la ragione. E se trova ostacoli è bassa l'antenna e non ce la fa. Gianni, ma stai rientrando? Non la puoi mettere con le gallette senza fare buchi da nessuna parte. No, l'altra non ce l'ho più, l'ho data e me ne sono pentito. Quell'antenna lì è lo stesso attacco di questa, la 2001 ha lo stesso attacco. Basta andare a comprarla un'altra, buonanotte. Te la compri, hai fatto male a data. Io quelle che avevo le ho tutte date. Le avevo date a Luca, le avevo date. Entrate in macchina, non le guido e non le mette pochi dunque. Le ho tutte date. Ma oggi ho sorriso, convinto di mettere qua perché c'è il basso di là e volevo fare un altro gioco. Adesso che si sia attaccato qualche filo perché piace la portata e non si muove manco la... Sicuramente si è attaccato qualcosa, è bello, dai a Luca e te lo controlla. E anche, basta guardarlo. E così è. Bene, Mela, riprendi, Giulio, mi accetto 2 minuti. Va bene, grazie, d'accordo. E così è già, si sarà attaccato qualche filo dal microfono e crosta, sarà la fesseria. Se funzionava, se non hai fatto nessun errore, ad esempio collegandolo, non vedo per quale motivo non dovrebbe funzionare. Sarà il microfono, si sarà attaccato qualche filo magari tirando, eccetera, che ne so. Prova, controlla, se no già è rimediabile sempre, non è un problema. Avanti già. Ok, beh certo. Boh, bravo, che dire. Quasi quasi me ne scendo giù al computer lì. Non so cosa fare. Se continuare a parlare a baracchino o se scendermene giù al computer. Va bene, ce l'ho anche qua, ma io quando scendo dal computer preferisco stare giù nella sala. E uso quello che c'è lì, cioè, perché qua lo devo tirare fuori e lui là invece è sempre attaccato, sempre pronto, per cui vedremo un po', dai, adesso decido tra qualche minuto, vediamo. Avanti Gianni si è arrivato a casa, scommetto. Ascolto Santiago 7 quasi, ti ascolto, la radio è sempre buona, non c'è problema. Va bene, dai, adesso stai chiudendo e allora rimango da solo e vado via anch'io, chiudo anch'io. Me ne scendo giù e mi accendo il computer e vediamo un po'. Stavo seguendo delle cosettine e continuo a seguire quello su YouTube. Vabbè, dai, ciao Gianni, grazie per la chiacchieratina, alle prossime. Ciao Graziano, se mi stai ascoltando ancora, non so se sei rientrato, ma chiudo, dai, ti saluto. Ci sentiamo un altro momento. Ciao Marco, se sei ancora all'ascolto. Claudio, se sei all'ascolto. Ciao Franco, se sei ancora all'ascolto. Saluto a tutti. Roberto Bandito, com'era, se sei ancora all'ascolto. Saluto a tutti, chiudo. Ciao, vai Gianni, ascolto il finale, dopo di te chiudo. C'è Faraddu. Ciao Giulio. E adesso mangiucchio qualcosa, dai. Io credevo che Gianni arrivasse fino all'ancora per fare la prova da lì. Gianni, c'è ancora? Era in cortile, era, sicché si ha parcheggiato e sicuramente ha attaccato tutto e sta salendo a casa. Magari può darsi che accende la casa, sicuramente farà così. Vabbè, dai. Aspettiamo un attimino, vediamo un po' se riprende, se no non, per non lasciarti da solo, Marco, dai. Io sono arrivato alla fine. È rientrato Gianfranco. Vabbè, Gianfranco, cosa mi dici? Allo stato attuale non si evince nessuna parola che tratti i canoni, innanzitutto. Parla di libertà, ma per quello che riguarda l'impianto di videosorveglianza messi dai comuni, eccetera, che si può mettere in parole povere dove le pare piace. Relativo proprio alla questione delle radiofrequenze, si occupa essenzialmente di celle telefoniche e sulle esposizioni di radiofrequenza in cui il comune può non può dire più di tanto, perché l'ultima parola aspetta in ogni caso lo Stato. Tutto lì, per vedere un po' se realmente i precedenti decreti sono stati aboliti, bisogna aspettare la comunicazione del MIS, è l'unica quella cosa. Allo Stato in cui è impostato, penso che ho molti dubbi sul fatto che sia realmente abolita, perché non lo trattano allo specifico. Sulla Gazzetta Ufficiale forse tu non hai trovato l'articolo appunto che interessava quella voce lì, perché c'è scritto abbastanza chiaro. Se vuoi te lo leggo anche, io ce l'ho stampato sul telefonino, se vuoi dammi un attimino, te lo leggo direttamente così in frequenza. Ti prendi? Posso? Gianfranco, ce l'avevo sotto mano, il foglio. Allora, avevano abrogati l'articolo 36, che è quello che riguarda i 12 euro da pagare. Poi, abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 145, che era quello che parlava, mi pare, della dichiarazione di utilizzo. La dichiarazione da fare di utilizzo, l'ex concessione, come vogliamo chiamare. Poi abrogato l'articolo 37 dell'allegato 25. L'allegato 25, adesso io non me lo sono segnato, però parlava di attività similate a quelle in manda cittadina, e qui riguarda praticamente i 12 euro da pagare per il PMR. Cioè, che avessi o baracchino o PMR o baracchino e PMR, insomma nemmeno per il PMR si paga più, abrogati, vabbè. Adesso quello che ho scritto qua, due appunti buttati giù, però l'ho letto su Roger K, anche questa cosa qui. Molti erano anche stupiti di questa cosa, proprio come se la 27 fosse meno di niente. Manca documentazione, niente. E io, dai. Io affondo i denti, riprendi Gianfranco. Ok, presumo che stai facendo colazione. Sì, ma ripeto, io l'ho letto attentamente, in tutte quelle norme, comprese le telecomunicazioni, eccetera, ma la parola esplicita concessione o canone annuo, diciamo, non si è trovata. Niente, io sono del parere che bisogna aspettare, anche perché sul sito MISE proprio non c'è niente, ci sono, essendo sede di luglio se non ricordo male, adesso la Gazzetta, probabilmente essendo anche un periodo di feria dovremo aspettare a settembre per vedere un po' settembre-ottobre delle pubblicazioni un pochettino più chiare, perché si presta troppe interpretazioni, capito? Perché mi cita degli articoli in cui sono collocate parecchie altre tipologie, quindi bisognerebbe aspettare un attimino e poi vedere un po' un discorso del mandato comunque, quindi bisogna vedere nel dettaglio le cose, come vanno a finire. Se come dite, tanto meglio comunque, anzi è meglio così. Niente, tutto lì. Giulio, volevi riprendere? Leggo qualche frase. Allora, si informa l'utenza che dal 17/7/2020, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 178 del 16/7/2020 e del decreto legge numero 76 del 16/7/2020, sono stati abrogati l'articolo 127 e il comma 3 e 4 dell'articolo 145 del codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato 25 del predetto codice. Relativamente ai documenti di esercizio delle stazioni radioelettriche, a seguito dell'abrogazione del citato articolo 127 non sussistono più gli obblighi di rilasciare il documento di esercizio a soggetti autorizzati. relativamente alla dichiarazione da rendere degli apparati di debole potenza CB PMR 446 MHz in banda cittadina a seguito dell'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 145 e dell'articolo 37. Allegato 25, viene soppresso l'obbligo di rendere la dichiarazione e per effetto delle predette disposizioni non risulta più dovuto il versamento del contributo annuo di euro 12. Poi segue, se leggo la seconda parte e dopo te leggo la seconda parte o già fare quindi. Sì, ok, d'accordo su tutto, ma da cosa stai leggendo? Perché io me l'ho letto articolo per articolo e apparati di debole potenza non li cita. E io non ho letto quello che mette Roger Net, OCB, cosa io ho letto proprio la Gazzetta Ufficiale in quanto documento ufficiale dello Stato, quindi è l'unica fonte che fa testo, poi uno lo può interpretare in 3.000 modi, ecco, è quello che ti voglio dire. Però nello specifico, come stai dicendo tu, non si paga CB, la prova CB non la vedo sulla Gazzetta Ufficiale, capito? Proprio su quegli articoli, tra l'altro. No, c'è proprio scritto, abrogato ogni versamento e anche la domanda per l'inizio attività. C'è scritto, per cui non è quello. Cioè, te lo ripeto, guarda, ti leggo solo la seconda parte che ti ho letto. Relativamente alla dichiarazione da rendere per gli apparati di debole potenza CB e PMR 446 in banda cittadina a seguito dell'abrogazione dei comma 3 e 4 dell'articolo 145 e dell'articolo 137, allegato 25, viene soppresso l'obbligo di rendere la dichiarazione per effetto, solo mi si spegne il telefonino, per effetto delle predette disposizioni non risulta più dovuto il versamento del contributo anno di euro 12. E lo dice chiaramente Gioca. Cucù. Sì, ma... Vabbè, comunque sì, io dicevo sempre cautela, ma anche su Roger K l'hanno detto, anche noi. Non sia che il ministero faccia casino, insomma, non tutti saranno contenti di questa cosa, se... Dunque io continuerò, cioè, c'ho la cartelletta, continuo a portarmeli, cioè, se proprio vogliono vedere il pezzo di capra, perché conta una cosa anche, le forze dell'ordine tipo carabinieri, polizia, cioè non è che ci hanno all'istante la Gazzetta Ufficiale stampata in mente, loro vedendo magari un apparecchio radio chiederanno una licenza, una concessione, insomma, ti dicono un pezzo di carta, mi chiederanno, quindi io lo porto, tanto mi per tutto il 2020 era già pagato e anche dopo al limite, ma così tanto per... poi che altro? Vabbè, è lungo da fare il discorso, quindi non ve lo faccio, leggiamo fra. Sì, ma ripeto, io ho letto la Gazzetta Ufficiale, ma che non ci sia un allegato a parte, presumibilmente l'allegato A o l'allegato B, che qua non vedo, perché poi il seguito è tutto tabelle pressoché incomprensibile a un profano. Però la sostanza è quella che io, quello che sta dicendo Giulio probabilmente è un appendice di questa cosa. Però ripeto, senza adesso stare a manare il camperlaia, se c'è una novità ci sono davanti parecchi mesi, e quindi il MISE sicuramente lo metterà bene in chiaro, attenzione, anche per evitare ingorghi, soprattutto nei pagamenti, poi dopo li restituire. Quindi il problema non esiste, ecco. Prenderei questa notizia come buona, però in attesa di ulteriori e più chiare spiegazioni, che è l'unico che può dare a questo punto il MIS, tutto lì. E poi guarda, l'ultimo pezzo dice questo, per quanto sopra... Relativamente i documenti di esercizio delle stazioni radioelettriche a seguito dell'abrogazione della citata articolo, dalla citata articolo 127 non sussistono più gli obblighi di rilasciare il documento di esercizio ai soggetti autorizzati, per cui non c'è bisogno di nessun documento e nessuno te lo può anche chiedere, perché se te lo chiedono ti stanno chiedendo una cosa che non esiste più. Vai Giocla. Sì, Giulio, ma comunque ripeto, non costa niente aspettare un mese quando lo pubblica il MISE in maniera chiara e leggibile a tutti, ecco, capito? Tutto lì. Quindi aspettiamo e poi chi si farà vedrà, vediamo cosa succede. Tutto lì, non mettiamo il casetto davanti a voi, anche perché c'è tanto tempo ancora, chissà cosa succederà qua a dicembre. Ok, chiaramente poi se ci saranno altre delucidazioni lo verremo a sapere, suppongo. Ma oggi come oggi, con tanto di fotografia, scritto Gazzetta Ufficiale, eccetera, eccetera, numeri di articoli, eccetera, eccetera, per cui sanno quello che hanno pubblicato, perché è di recente pubblicazione, non penso che ci possano essere dei problemi non aver capito chiaramente cosa si intende. Va bene. Avanti Graziano. Se non basta andare lì alle poste centrali, sali lì e te lo dicono subito. Sì, come farò la raccomandata, sì. No, grazie, è sempre chiusa la porta lì dove si fa a ritirare i moduli, dove si andava a ritirare i moduli, è sempre chiusa la porta, chiusa a chiave, proprio non puoi entrarci. Io lo so perché avendo fatto la fila per ritirare la pensione mi sono reso conto che lì quel portone già da qualche mese è chiuso a chiave e nessuno può entrarci, entrano solo gli addetti che direttamente aprendo con la chiave e poi chiudono subito. Non c'è spazio per la gente, non ci puoi salire, insomma, ecco, sarà per il Covid, non lo so, sicuramente sarà per quello, per quanto sta è così. Quell'ufficio lì è chiuso già, no, oh, grazie. Marco, ci sei? Sì, volevo dirvi questa cosa che avevo letto sempre in rete, no? Allora, il famoso protospataro, come si chiama, c'è il prontuario delle sanzioni redatto dalla EGAF, che Polizia e Carabinieri hanno per fare più multe, no? Il breviario, diciamo. Era menzionato anche il baracchino, cioè usare un apparecchio ricetrasmittente senza autorizzazione o quello che è, no? Però la EGAF aveva inserito questa cosa non vera, diceva, quindi multare il baracchino se non è concessione e bollettino, dice la sanzione si applica anche la sanzione si applica anche per l'uso di riceventi scanner multibanda, nota, spesso usati anche per l'intercettazione di comunicazioni riservate alle forze dell'ordine. Questa cosa falsissima, perché, scusa, già davano le SWL, no? E vabbè, te lo dovevi tenere in casa. Poi, c'è praticamente una cosa non vera. Porca troia, mi sto impappinando. Cioè loro dicevano di fare multe anche se avevi uno scanner, anche se avevi solo bande amatoriali, cioè in memoria a frequenza amatoriale, dovevi fare il verbale, proprio per rubare i soldi al cittadino. No, proprio una... Ma adesso sbottomi. Niente, mi sono arenato. Naturalmente rimangono tutte le norme vigenti, naturalmente, ovvio, no? Baracchino omologato, con marchio CE, PMR di debolissima potenza, e così via, come la prima, questo sì, però per quanto riguarda il versamento della tassa sembra abrogata definitivamente, tutto lì, compreso anche la domanda di concessione, chiamiamola così, anche per gli addetti. Lui dice chiaramente che non anche le persone autorizzate, cosa ti chiedono? Se è stato abrogato anche quello, tu non ne puoi avere più, cioè di concessione non ne hai più, perché non ne danno più, per cui va bene così. Va bene, avanti Gioffla. Sì, ma infatti basta aspettare che il MISE dia la comunicazione ufficiale, l'interpretazione giusta di questa legge, perché poi non basta che facciamo la legge, è un problema soprattutto dell'Italia questo. La legge va benissimo se dice quello che effettivamente uno ha capito, però è meglio se poi viene chiarita a livello ministeriale, che il ministero dica a tutte le serie eccetera eccetera, dall'anno 2021 sono aboliti i trick e track, giusto quanto citato nella gazzetta ufficiale numero, insomma la solita procedura, ecco. Fino adesso sul sito del MISE non c'è niente, questo è il sito, diciamo, a cui noi facciamo riferimento ovviamente per tutto. L'unica cosa che si intravede su moltissimi siti è la caccia al CB con oltre 40 canali, perché come già dall'inizio dell'anno pare che è un po' da tutte le parti, e non solo in Italia, si è aperta la caccia, ha chiuso i canali alti. In Giappone c'è una fortissima repressione, stavo scrivendo, quindi con pene severissime, forse perché quella banda, la 27.425 credo un po' in su è dal ministro della difesa, evidentemente sono tutte le scatole ed è l'unica cosa che è un po' a livello internazionale con la cosa lì. Poi così c'è scritto, così ti dico. Vabbè, comunque questa cosa che c'era su questo prontuario era un abuso praticamente, dicevano di fare a priori una sanzione a chi aveva uno scanner, no. Adesso lasciamo perdere le SWL, che è una cosa vecchia e non più obbligatoria, no? Il codice delle comunicazioni dal 2003 in poi, mi pare, diceva, è libera l'attività di solo ascolto delle bande amatoriali. Questi alla EGAF si sono inventati questo articolo, forse per compiacere qualche amico, amici degli amici. Infatti uno o più radioamatori di sempre zona Roger K hanno scritto alla EGAF dicendo di correggere nel prontuario questo errore, perché sennò quelli continuavano magari a macinare multe e magari uno ci aveva un normale ricevitore con solo bande amatoriali in memoria o in VFO anche, capito? Le porcherie che fanno però. Vabbè, ma non si può dare cosa a queste pseudo cose che fanno manuali, che fanno quelle cavolate lì. Ci fanno anche i corsi di book praticamente. Quello che fa testo sono le leggi, perché poi finisce in tribunale, perdono la causa, spendono soldi sia tu sia la pubblica amministrazione, ne scombattamati entrambi. Tutto lì, quindi anche loro, a me mi hanno fermato, guarda, un paio di volte e non hanno controllato niente, perché hanno detto volete i documenti? No, perché già il fatto che avevo i documenti appresso evidentemente non è fregato niente. Visto che non erano baracchini, quindi era roba seria, e non, insomma, capito, non hanno insistito, anzi hanno fatto pure la domanda, ma con questo intercetta anche a noi, no, voi siete tutti in digitale, siete super criptati, non avete il problema, ti ho dovuto spiegare io, e da lì mi hanno subito mandato via. Avanti, chi vuole entrare? Ho sentito un fischio, avanti. Vai Gianni. Nulla. Sì, comunque poi durante i controlli, anche nel caso fosse un baracchino, un ricevitore, non controllavano nulla, Non controllavano effettivamente se era un ricevitore, se era un ricettore-emettitore. Potevo mettermi quadribanne, macchina, tutto. Vabbè, meglio così. No, degli sbagli, perché anche qua di fronte a Carrefour, ad esempio, ho visto due pattuglie, e una era dell'anticrimine e l'altra era della postale, facendo posto di blocco, e quelli ti assicuro che già lo sanno bene, ben distinguono un apparecchio, diciamo, anomalo. E il fatto è che se ti trovo un apparato, che ne so, amatoriale, mettiamo così, e non c'è la patente, se ti pizzicano, magari ne pizzicano uno all'anno, però ti pizzicano sono sanzioni da capogiro, è cosa che una famiglia mette in crisi, a parte la parte penale anche, che non mi risulta che sia stata abrogata, però insomma, a prescindere da tutto, sono casini grandi, che non ne valgono la pena. Ma io ho sentito da più fonti, è penalizzato dal 2017 questa storia dell'apparecchio amatoriale, c'è solo sanzione amministrativa, però prendila col beneficio del dubbio. Eia. Sì, ma poi è strano anche trovare, cosa controlla la postale al posto di blocco assieme all'altro, le autoradio controlla, cosa controlla? Baracchini, non è più nessuno, manca un cane in macchina. Te l'ho detto che c'è un documento del Ministero della Difesa che dice praticamente su tutte le valiche eccetera di ampliare i controlli su questi sistemi, sui baracchini, diciamo così, che fanno escursioni oltre 40 canali. Praticamente poi mi sembra anche una cosa insolita, perché il mio portatile è omologato, ad esempio, eppure premendo due pulsanti lo puoi mandare sulla banda europea, sulla banda internazionale, diciamo, quindi c'è 120 canali. Quindi è una cosa un po' che lascia perplesso, ecco. E siccome ho letto, ripeto, se tu leggi anche anche in altri paesi stanno battendo proprio in maniera pesante, non tanto sugli apparati ma proprio sull'uso di quelle frequenze lì. Evidentemente non so che programmi ci siano, chi si sia lamentato anche al di fuori dell'Italia. Tutto lì. Poi comunque, dato che non costa niente, anche perché oramai diciamo c'è la tuta, sono sia radioamatori sia CB, sono quattro gatti, con l'avvento anche di quella della Midan, di quell'applicazione, di è pieno mattina e sera, sono tutti trasferiti lì, non hanno più problemi di portata, di distanze e così via, anche perché in termini di dati che consuma pochissimo. Ragazzi, io chiudo, saluto tutti, saluto il circolare a chi c'è e chi non c'è. Ciao, riprende Giulio, ciao a tutti. Ok, grazie, tu vengo, sai, grazie. Ehi, devo andare a fare il ginecologo, già lo sai, c'ho i pazienti. Ho capito, va bene, dai. Ci sentiamo, fatti sentire grazie a non rimanere altri sei mesi adesso senza accendere più la radio. Alle prossime, ciao grazie, faccio girare, vai Marco per salutare a Graziano che sta chiudendo. Ciao Graziano, dai, ci sentiamo le prossime. Sami bene, modulazione, quindi a posto, funziona tutto, dai, cerca di entrare più spesso magari. Io devo necessariamente fare una pausa. Vai Gianfranco per i saluti a Graziano. Ciao Graziano, buona serata. Bel lavoro quello del ginecologo e comunque. Sicuramente interessante. Non tanto, fa 80 anni. Ciao. E allora non è più interessante. Riprendi Giulio. Ok, ciao Graziano. Attento a non sbagliare puntura però, non sbagliare grazie a, falla nel punto giusto, non fare il furbo. vabbè, comunque, tornando a quel discorso, diciamo che è sempre una legge fatta con i piedi, secondo me, perché avrebbero dovuto anche chiarire meglio la situazione, il fatto del marchio CE, eccetera eccetera, perché sì, parlano è vero di debole potenza eccetera o già, però non parlano di omologazione, cioè, dunque a questo punto sarà magari in un altro articolo di legge ci sarà qualcosa a riguardo di quello, però secondo me, visto e considerato che hanno fatto questa nuova legge sulla tassa eccetera, avrebbero dovuto anche specificare meglio che l'apparecchio, oltre a essere di debole potenza, deve essere anche marchiato CE. Invece non dice nulla in merito a quel fatto lì. Cosa vuoi che ti dica? Sempre le leggi all'italiana o poi ancora... Adesso vabbè, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, una volta che viene pubblicato lì è già in vigore la legge. Però la lentezza burocratica per mettere in atto o la legge stessa, figurati se fanno così in 448, Gianfra, lasciamo perdere, vai. Sì, anche perché loro stessi nell'articolo che leggo su questo è il 27mega.it, lo danno così, un altro passo verso la liberazione è stato fatto, è ok, ora non rimane che estendere la banda CB anche a frequenze superiori a 26, non c'è nessuno che la può anche estendere, sono sti canali vuoti che te può fregare. Io invece ho autorizzato le trasmissioni digitali, insomma per fare veramente innovazione, non di andare oltre a sentirti i russi eccetera, ma chi se ne frega. E poi sull'articolo stesso c'è la foto della Gazzetta Ufficiale, che è del sito del MISE, che dice finché sarà ancora visibile il vecchio ordinamento sul MISE. Scusa, se non lo dice il MISE, che è il principale interessato, aspettiamo. Ripeto, è un decreto legge del 16 luglio, quindi recentissimo, numero 76, e quindi bisogna aspettare le cose del mistero, punto e basta, c'è poco da fare, perché capirci qualcosa, insomma, non è così semplice. E poi, comunque, no, ripeto, non è un grande problema. Abbiamo visto che piano piano si sta tutto modificando e vediamo un po' cosa succede, perché già ne abbiamo visto tante, no, di cose, Giulio, poi sono andate a finire onde di stingo, dei ma però ma per come, tutte queste cose sono sempre legate poi a un chiarimento, tutto lì, e quindi noi aspettiamo il chiarimento del Ministero. Sì, beh certo, anche perché non tutti hanno letto la Gazzetta Ufficiale, parlo non le persone, non le persone, noi e il popolo, ma addirittura anche gli addetti al lavoro. Io penso che c'è tanta gente che prima era addetta ai controlli eccetera, sono convinto che non tutti sanno della nuova innovazione di legge a riguardo di questo, per cui come ho detto poc'anzi, la lentezza burocratica, per la lentezza burocratica l'Italia è maestra, lo sappiamo bene, anche se, come ho detto poc'anzi, una volta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge è già in vigore, ma la deve mettere anche in pratica, la deve mettere in atto in modo che tutti ne possano usufruire in maniera chiara e lecita, perché così non è detto che non ci possano essere delle contraddizioni. Ad esempio, tornando al discorso, uno ce l'ha in macchina, trovi un poliziotto che non è aggiornato al riguardo e può farti osservazione, mi faccio vedere la licenza per portare la radio in macchina. E questo appunto non si sa, la legge italiana è così, è di una lentezza burocratica impressionante, purtroppo è così, non c'è da fare. Infatti, per quello che ricopriamo, quello del CIE ad esempio, come invece è molto chiara, anche se pochi l'hanno, diciamo così, appresa, significa semplicemente che tu non puoi utilizzare apparati che non sono marcati CE, quindi tutti gli oggetti, dalla pennetta USB al che ne so, alla radio, anche alla radio normale, alle normali radioline, devono essere marcate CE. E CE significa che sono autorizzate, che più che omologate, per i requisiti che richiede non l'Italia, ma la Comunità Europea, che è ben diverso. Quindi non è una legge italiana, l'Italia si è dovuta solo adeguare a quello che ha deciso l'Europa in termini di circolazione delle merci, eccetera, eccetera, a garanzia del consumatore, perché come tu sai molti apparecchi, anche elettronici, possono contenere sostanze vietate in Europa e ti portano porcheria che può provocare malattie o addirittura incendi, insomma ce ne sono tanti oggetti che erano stati importati fuori norma, no? Quelle che una volta chiamavano le cineserie, perché erano fatte proprio in maniera non conforme, con tanti rischi. E quindi quella legge ha imposto un certo livello di qualità dei prodotti, ecco, tanto è vero che adesso anche la pennina cinese omologata c'è, che deve essere attento anche il simbolo che è distanziato, ti permette di avere un oggetto comunque tranquillo, che funziona, ecco, che ha quei requisiti di sicurezza che tutti auspichiamo per evitare cose brutte, ecco. Tutto lì. Quindi adesso aspettiamo quest'altra, se, come diceva quello, se sono, non lo ricordo più Giulio, se sono, fioriranno. È proprio, alle volte grazie da ridere proprio come fanno le cose, come fanno le leggi, per carità. Ma adesso vabbè, oggi prendiamo le macchine moderne, si sa, sono macchine moderne e tutte sono in regola, anche sul fatto del marchio CE, eccetera. Ma supponiamo il caso, io ho una macchina datata, che non era corredata di autoradio, perché prima le aziende costruttrici delle macchine non le mettevano le autoradio, però me la compravo io, per dire, se la comprava la gente l'autoradio. Allora anche se io ho un autoradio, per dire, lo so, di 20 anni fa, che non è marchiato CE, allora anche quello dovrebbe essere un'infrazione. Ma cose, guarda, ripeto, fanno delle leggi poco chiare, ma in una maniera, oltre al fatto che sono sempre complicatissime, però fanno delle leggi che sono pochissimo chiare, anzi per niente chiare tantissime volte, sicché non riesco a capire in che mondo stiamo vivendo, perlomeno non so se tutto il resto del mondo, in Europa è così, ma in Italia c'è tanta di quella confusione che non fa altro che confondere la mente e la vita alla gente. Ma comunque, cosa vuoi che ti dica, Gianfra? Purtroppo è quello il problema, capito? Che scrivono sempre riferendosi alle precedenti norme, abolendo le precedenti norme senza dire quello che dicevano, perché nessuno le capisce ovviamente, le norme precedenti, quindi è tutto un guastabuglio su cui tanta gente ci ha nuotato per anni. Adesso infatti se fanno una vera e propria semplificazione, e speriamo la facciano, la prima cosa da mettere in mano è lì, a iniziare a essere un po' più chiari. Ad esempio, molto chiara è quella sui PMR. Il PMR libero deve avere quelle caratteristiche, non solo in Italia ma in tutta Europa, quindi è una cosa chiarissima, deve avere un'antenna amovibile, non deve andare oltre 500 mW e deve essere su quelle su 8 canali più altri 16 digitali, e quindi è chiarissima, no? Più chiara di così se ne muore, quindi già il fatto che hanno di quegli apparati per togliere l'antenna è un illecito, non è più conforme alla normativa europea, quindi può essere sequestrato, l'utente sanzionato e così via. È tutto lì, però almeno uno lo capisce al volo, non c'è bisogno di essere dei giuristi per capirlo. Forse fossero così tutte le altre andrebbe pure bene, ma non è così. Purtroppo, sai, l'Italia è la patria della zaccacarbugli, si fa una legge per trovare subito l'inganno, e quindi anche noi ci dobbiamo abituare a iniziare a essere un pochettino più concreti e più stringenti, dire chiaro chiaro cosa si può fare e cosa non si può fare. Tutto lì, Giulio. Piuttosto hai parlato della macchina, ti volevo dire, ma la tua macchina, la nuova, la tua radio qual è? Quella con lo schermo grande grande? Sì, con lo schermo grande grande, sì. C'è anche l'orologio, insomma ci sono diverse cose, sì, lo schermo grande. Comunque avevi ragione tu a riguardo della targa, era FX mi sembra che avevi detto, ed è così, l'avevo guardata poi il giorno per vedere se era FF, no, era proprio come dicevi tu, o Giopra. Sì, se ce l'hai da mano, guarda, o è FS o è FT, una delle due, dipende da quanto tempo è passato da quando l'hai ritirata. Diciamo che la macchina è stata comprata in ottobre, se ricordo bene, sì, ottobre, praticamente è quasi un anno, dai, siamo quasi un anno a...